Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda la borsa, visto che vedo già molti messaggi su WhatsApp e su negli SMS al 349-238-6666. Ci sono alcuni, la borsa non è così preoccupante, meno 0,15% oggi Milano, peggio fa Parigi, meno 1,20%. E Francoforte meno 0,80%, Londra meno 1%. Ci sono però fortissime pressioni sui titoli, su alcuni titoli, e Ferragamo, in primo, e mi riferisco al settore del lusso. Ferragamo ha diffuso ieri i conti, non sono assolutamente piaciuti al mercato, perde l'8% in questo momento in borsa. Li ha diffusi ieri sera il gruppo Salvatore Ferragamo, ha registrato un utile netto in aumento del 3% rispetto allo stesso periodo, 112 milioni, margine operativo in aumento. Insomma, il dato è che il mercato si sta interrogando sulle capacità del gruppo di confermare le stime per fine anno. Questo porta poi a far calare tutto il mondo del lusso, un po' anche per associazione di idee. Penso a Tod's che perde il 2% e Hugues & Porter che perde il 4,5%, anche Luxottica cede l'1%. Per il resto invece gli altri titoli da questo punto di vista sono sostanzialmente in linea, nel senso che hai A2A che guadagna il 2,22%, ma insomma non è da questo punto. E poi hai Moncler, dimenticavo Moncler, avete ragione, meno 2,40%. Grossi altri cali, si registra qualche flessione ancora sul settore petrolifero, meno 1% Eni, e invece in recupero altri energetici, penso appunto ad A2A più 2,22, Enel Green Power più 1,80, Enel più 1,5, come la Pop Emilia Romagna, l'1% lo guadagna Atlantia. Euro a quota 1,07 nei confronti del dollaro, 1,0726 nei confronti del dollaro. E infine, per quello che riguarda invece gli altri temi di questa puntata, è ovvio che ci occuperemo del dato sul PIL, la delusione del Premier, che di solito è molto ottimista, ha dovuto ammettere Matteo Renzi commentando i dati dell'Istat, speravo nello 0,3%, ma è comunque il terzo trimestre positivo e a fine anno faremo uno 0,9. Da dove arriva la delusione? Arriva da un Istat che oggi ha diffuso il dato sull'andamento del PIL nel terzo trimestre, più 0,2% rispetto al trimestre precedente, più 0,9%. La crescita acquisita per il 2015, che vuol dire che è quanto cresceremo ormai comunque anche se l'ultimo trimestre dell'anno dovesse essere a zero, la crescita acquisita è dello 0,6%. Serve un balzo però, attenzione, ne parleremo nel quarto trimestre per raggiungere l'obiettivo dello 0,9. Praticamente è molto semplice, basta fare un calcolo aritmetico in base al PIL che hai acquisito e il dato un po' deludente, anzi deludente del terzo trimestre. Devi fare un vero e proprio balzo dello 0,8% nel quarto trimestre, un po' dura per centrare l'obiettivo dello 0,9. Ne parleremo analizzando anche come questo può cambiare, se può cambiare, diciamo, l'approccio del governo, visto che la legge di stabilità è ancora in fase di discussione, la legge finanziaria, come si chiama adesso, la legge di stabilità. In apertura ricordo, ahimè, la poco invidiabile classifica di Focus Economia anche questa settimana sugli sprechi della pubblica amministrazione, mentre avremo come sempre anche il caso virtuoso di chi ha lanciato un'attività in questi anni di crisi. 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve.

non registrato dalla stessa Ernst & Young l'anno scorso, nello stesso sondaggio, dove il numero di manager che si diceva fiducioso di un ritorno all'utile era solo del 48%. Si chiama Global Capital Confidence Barometer e sostanzialmente il 93% del campione prevede anche una crescita dell'economia globale a livello questo internazionale. Il 27% lo attende molto sostenuta. E poi c'è il giudizio del quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che dedica all'Italia un reportage dal titolo Il piccolo miracolo di Roma. Ora non è riferito a Roma come città, perché altrimenti dovremmo capire quale cosa fuma il corrispondente di Handelsblatt, ma è riferito a Roma come capitale dell'Italia. È abbastanza raro in generale, soprattutto in questi anni, avere dei commenti positivi da parte della stampa tedesca. Scrive Handelsblatt: gli italiani consumano di nuovo, i lunghi anni della crisi dell'austerity sono alle spalle. Sì, bisogna capire chi li ha generati. E poi infine tutta una serie di dati economici positivi: produzione industriale, consumi, disoccupazione, fiducia degli imprenditori. I dati sono buoni e ora il governo spera nella promessa di maggiore flessibilità da parte di Bruxelles. Parleremo, alcuni mi stanno chiedendo di altri elementi del Consiglio dei Ministri, ne parleremo nella seconda ora del programma. Abbiamo tutta la pagina dedicata proprio al Consiglio dei ministri. Due dati li devo dare ancora però invece, ed è la conferma che a ottobre l'inflazione è stata allo 0,3%, una leggerissima accelerazione rispetto al mese di settembre, quando fu allo 0,2. Il carrello della spesa, cioè dei generi più frequentemente comprati, è 5 volte comunque sopra la media Istat. A ottobre fa più 1,5% contro un tasso generale appunto dello 0,3%. E poi la vicenda dell'olio extravergine. L'autorità garante della concorrenza del mercato, dopo le segnalazioni pervenute da un'associazione di consumatori, ha annunciato di aver avviato 7 istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di alcune importanti aziende che commercializzano olio in Italia. Dai test condotti dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le caratteristiche organolettiche e chimiche dei campioni degli oli sarebbero risultate inferiori ai valori previsti per qualificare l'olio come extravergine di oliva. Allora, 349-238-6666 per sms, whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Partiamo con la nostra poco invidiabile classifica. La classifica della settimana. Non parleremo dell'abate di Monte Cassino, parliamo di soldi pubblici, ne parleremo dopo. Insomma. È chiaro, dai, oggi al primo posto la tentazione di mettere l'abate di Monte Cassino è altissima. Però fatemi dare prima una rettifica, come si chiamano in gergo, perché ci ha scritto il dottor Pasquale Cattaneo, che citammo in merito ai gettoni di presenza del comune di Foggia. Allora, che cosa ci ha scritto Cattaneo? Noi citammo il fatto che a Foggia c'era un nuovo regolamento, ma non calava la spesa per i consiglieri, e che la commissione regolamento era arrivata a sconfessare se stessa modificando quanto deciso precedentemente con una norma che era stata ribattezzata Pro Cattaneo dal cognome del consigliere comunale di centrodestra per il quale era stata introdotta, e questo modificando una norma in cui sostanzialmente venivano ridotti i costi della presenza consigliere, dei gettoni di presenza. E poi citavamo anche il fatto che fu bocciato l'emendamento proposto dal consigliere di Fratelli d'Italia Maniero, in cui si chiedeva di fissare solo 2 riunioni settimanali e nel pomeriggio delle commissioni. In questo modo si sarebbero risparmiati 700.000 euro al comune di Foggia. e ricordavamo come il consiglio regionale, il consiglio comunale pagasse a Cattaneo, essendo lui dipendente delle Ferrovie dello Stato, pagasse 5.000 euro al mese. Allora, Cattaneo ci ha fatto scrivere dall'avvocato, dice che non è vero che esiste che l'emendamento è stato fatto per lui. L'emendamento di cui si tratta è stato presentato dopo una sospensiva della riunione del consiglio comunale corredata dalla sottoscrizione di ben 14 consiglieri di maggioranza e minoranza, e che quindi che non esiste questo emendamento a Cattaneo, e contesta anche il fatto dei 5.000 euro. Faccio solo una precisazione: non abbiamo un programma che si chiama L'Italia che funziona, imprese e mezzogiorno. Questo se l'ha inventato l'avvocato e Cattaneo. Il programma si chiama Focus Economia ed è la poco invidiabile classifica. E comunque chiede di precisare anche che da parte di 5.000 euro. Sì, posso dire una cosa, vorrei maggiori dettagli. Va bene, prendiamo atto che non esiste emendamento Cattaneo. Le faccio notare che l'articolo è del Corriere del Mezzogiorno, e da lì in data 15 ottobre, in cui veniva citato il fatto che il consigliere Paolo Pasquale Cattaneo, dipendente delle Ferrovie a Bari, il cui rimborso a carico del comune si aggira sui 5.000 euro lordi al mese, ai quali si somma il migliaio di euro dei gettoni di presenza. E poi si citava anche il fatto che il consigliere Cattaneo sarà capogruppo di se stesso, in quanto ha aderito alla formazione Schittulli, che sebbene non abbia ottenuto nessun seggio rappresenta come lista elezioni comunali. Ok, io non ho capito però se è vero o no che i 5.000 euro lordi vengono girati alle Ferrovie, e se nella lettera dell'avvocato ci chiarisce onestamente se è vero o no che si è evitato di risparmiare 700.000 euro di sedute consigliari al comune di Foggia. Se poi non c'è l'emendamento Cattaneo, va bene, ne prendiamo atto, diamo la correzione, e chiediamo anche se a questo punto non è vero quanto ha riportato il Corriere del Mezzogiorno, ce lo faccia sapere e chiedo una rettifica. Siamo a disposizione. Nel frattempo partiamo col quinto posto, c'è poco da scherzare. C'è una denuncia della polizia stradale del comparto di Brescia e di Milano. L'oggetto della denuncia, i destinatari sono i dirigenti, cito il virgolettato: collasso operativo della polizia stradale per mancanza di automezzi. Ditemi voi se è possibile. Allora, la denuncia è firmata da Rosario Morelli, segretario provinciale del SIULP di Brescia. Ha chiesto urgentemente di destinare alle forze dell'ordine parte dei veicoli utilizzati per Expo 2015. Alla polizia di Brescia mancano le auto, che è un dettaglio quando fai la polizia stradale e la polizia in generale. Per l'indisponibilità dei mezzi di servizio a volte si verifica la soppressione delle pattuglie adibite alla vigilanza urbana e extraurbana. Secondo il sindacato la situazione è allarmante, il personale operante si alterna sui turni, deve ruotare sulla stessa auto di servizio. Se la pattuglia smontante non torna in tempo, quella successiva non può iniziare a lavorare, ma rendiamoci conto, la situazione è fuori controllo. La dotazione della Polizia Stradale di Brescia sono 30 autovetture e 20 motocicli sulla carta. In realtà denunciano che è possibile impiegare per la viabilità ordinaria 7 auto e 6 moto. Solo 4 auto risultano operative e una di queste, una Fiat Fremont, è in prestito da Milano. Delle altre 3, una è ferma in attesa di riparazione, le restanti 2 sono a disposizione dell'autocentro lombardo in stato di fuoriuso. Il capitolo moto hanno 12 anni, le 3 superstiti sono delle BMW 320, hanno percorso ognuna 316.000 km. Io lo dico, ho letto anche l'intervista di Gutgeld, noi stiamo cercando, ma quando parliamo di spending review, in effetti parlavamo anche di questo, non di tagliare la spesa, ma di destinare alcune spese della pubblica amministrazione un utilizzo migliore. Di questo parlavamo. O mi dite che su 183 miliardi l'anno di spesa in beni e servizi della pubblica amministrazione non si riesce a spostare alcuni, non tagliare basta, ma anche spostare alcuni di questi soldi dalle siringhe, dalle fotocopiatrici, dalle sacche di plasma alle auto della polizia. È inutile poi chiedere sicurezza, la pena di morte, quando non riusciamo neanche ad avere le auto che girino nelle strade regolarmente. Cerchiamo di fare il paese serio una volta ogni tanto. Qua si passa sempre dal puniamoli severamente allo spreco fino all'ultimo euro. Cerchiamo di dare le volanti e le auto alla polizia e poi vediamo cosa succede. Comunque, dopo il meteo e la pubblicità, preparate le dosi di Malox, perché ne abbiamo a questo proposito di carine. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con la classifica di Focus Economia. Dunque, andiamo al quarto posto e ci occupiamo dell'ospedale San Gerardo di Monza. Allora, praticamente il direttore tecnico del raggruppamento di imprese costruttrici che si sono aggiudicati i lavori da 175 milioni di euro per l'ampliamento, il consolidamento e la ristrutturazione dell'ospedale San Gerardo di Monza, da sei mesi si definisce a guardia di un fortino vuoto. Il fortino è la palazzina da 25.000 metri quadrati che è stata realizzata davanti al monoblocco ospedaliero. I lavori sono iniziati nell'agosto 2013, si sono conclusi nel febbraio di quest'anno. Tutto pronto, c'è il centro unico di prenotazione con 25 postazioni, la sala d'attesa, il centro prelievi, nella hall vetrata ci sono anche negozi, un caffè, un ristorante, scali mobili, 11 ascensori funzionanti per l'accesso ai quattro piani ambulatoriali. Perfetto, dice, bella lavoro. Mica, sì, peccato che non apra, nel senso che all'ultimo piano c'erano anche le sale operatorie, le stanze destinate al day hospital. Gli ambulatori della radiodiagnostica sono al piano interrato accanto a una sala congressi da 300 posti. Mancano le sedie, ma intanto 300 posti li hai, magari un modo. Magari sarebbe interessante, 300 posti in piedi, quanti seduti? C'è il secondo piano interrato, è interamente occupato dagli impianti da 30 milioni di euro che sono stati accesi per la fase di collaudo e continuano a funzionare sotto il controllo di 8 tecnici, impiantisti e custodi, con costi che superano i 100.000 euro al mese, perché li stanno tenendo accesi. Ma non c'è nessuno, a chi non ci sta nessuno, dicono la nave, perché non c'è nessuno dentro. Pensate che Andrea Lantini, il costruttore, il direttore tecnico del raggruppamento di imprese, dice: abbiamo fatto i salti mortali per consegnare il lavoro nei tempi previsti e ora siamo fermi da 8 mesi, una cosa che non mi è mai successa in 18 anni che costruisco ospedali in tutta Italia. Di solito le direzioni ospedaliere mi strappavano dalle mani le strutture ancora prima dei collaudi, qui sembra che nessuno voglia prendere in consegna la nuova struttura. Perché? Perché c'è l'inchiesta dei PM milanesi Antonio D'Alessio e Paola Pirotta, che hanno inviato l'avviso di chiusura dell'indagine a 7 tecnici della commissione giudicatrice, accusati con l'ex numero 1 di infrastrutture lombarde Antonio Rognoni e il suo braccio destro di avere pilotato l'appalto. In base al cronoprogramma, l'azienda ospedaliera avrebbe dovuto arredare la struttura nei mesi dei collaudi, procedere al trasferimento di tutti i servizi e gli ambulatori in modo da svuotare il settore centrale del monoblocco e consentire l'avanzamento del cantiere. In realtà l'ospedale ha emanato solo ad aprile il bando da oltre 1 milione di euro per gli arredi, lo ha aggiudicato a metà di ottobre. Ma come cavolo, io dico, un bando per gli arredi che tu emani ad aprile, ma lo puoi aggiudicare a metà ottobre con un ospedale già pronto? Allora, a voler essere ottimisti, in questo bellissimo paese si stima che i letti, i tavoli e le sedie per l'ospedale San Gerardo di Monza, già pronto dopo 175 milioni di euro di lavori, potranno arrivare tra 5 mesi. Ma fai prima farli fare da un artigiano, letti, tavoli e sedie. Vabbè, complimenti anche al San Gerardo di Monza. Andiamo al terzo posto. Insomma, non se ne abbia la regione Liguria e il neogovernatore Giovanni Totti, però in 6 mesi Totti, da quando è presidente della regione Liguria, ha stipulato 21 consulenze nei confronti di altrettanti collaboratori esterni. Ora torniamo al solito punto: si riesce a mettere uno stop alle consulenze o almeno a ridurre gli organici regionali e poi giustificarle con le consulenze? Non lo so. Allora, ha preso Totti, ma anche per le tipologie degli incarichi. La più famosa è l'ex segretaria di Emilio Fede, ne abbiamo parlato anche noi in questi anni, però resta il fatto che il contratto stipulato il 26 giugno, 15 giorni dopo l'insediamento, Roberta Rosa Ferraro, storica segretaria di Emilio Fede, 140.000 euro l'anno per fare l'attività coordinata e continuativa concernente attività di supporter e raccordo alla segreteria politica del Presidente per gli aspetti connessi all'incarico di responsabile ufficio di segreteria, con particolare riferimento all'agenda e agli impegni del Presidente. Oh, fa la segretaria, con massimo rispetto, fa la segretaria. Ora, non si riusciva a trovare un'altra segretaria già presente, già assunta in tutta la regione Liguria. Fermo restando, scusatemi, ci sto restando io stavolta. Fermo restando che ha una lunga esperienza, non è che ha preso una ragazzina, però non si riusciva a trovare un'altra segretaria dentro, no, evidentemente no, così come l'avvocato Pietro Paolo Giampellegrini, tutte funzioni immagino utilissime, che con 150.000 euro deve occuparsi di consulenza giuridica e rapporti istituzionali. Non esisteva in Regione Liguria nessuno già assunto a livello di dirigente in grado di fare questa di svolgere questa funzione. E poi Alessio Piana, battagliero capogruppo in Consiglio Comunale per la Lega Nord, avrà una consulenza di 34.000 euro dall'assessorato all'agricoltura. Beh. La docente di lettere Margherita Rubino, 12.000 euro all'anno, scelta dall'assessore alla cultura Ilaria Cavo, molto amica della Rubino. Un altro consulente scelto dall'assessore alle infrastrutture Gian Piedrone è Davide Marselli, 12.000 euro l'anno per fare l'addetto alla segreteria politica dell'assessorato. E infine 2.000 euro mensili, e va bene, più i 5.000 euro di rimborso spese assegnati a Emanuele Gui, addetto alla segreteria di Toti, con funzione di autista. Anche qui non sono tanti soldi per un autista, ci mancherebbe. Ma non c'era veramente un autista in tutta la regione Liguria? Resteremo con il dubbio. Immagino che la risposta sarà no, non c'era. Oh, andiamo al secondo e al primo posto. Resteranno delusi quelli che pensano che al primo posto avremo messo il povero abate di Monte Cassino, ex abate di Monte Cassino, perché per essere ancora più cattivi lo abbiamo fatto arrivare secondo, nel senso che al primo posto c'è un peso massimo. Allora, è bellissimo quello che sta emergendo, perché dite, ma perché ti occupi dei soldi dell'abate di Monte Cassino, dell'ex abate di Monte Cassino, che era anche vescovo? Sono soldi della Chiesa? No. No, perché lui utilizzava, spostandoli sui suoi conti correnti, i soldi dell'8 per mille. E i soldi dell'8 per mille sono donazioni nostre, e andrebbe cambiata la legge che prevede che quando tu non indichi dove vanno questi soldi, vengono ripartiti in base, lo abbiamo spiegato, in base alle destinazioni più utilizzate, per cui la Chiesa Cattolica, anche in quelli che non indicano l'8 per mille, prende la fetta maggiore, perché è tra quelle maggiormente destinatarie in chi lo indica. In un mondo normale, in uno Stato laico, se io non indico a chi va l'8 per mille, l'8 per mille resta lo Stato, no? Non è che va in automatico alle altre religioni. Poi tu dici, no, ma devi indicare se resta lo Stato. Ho capito, ma se per caso mi dimentico, chi ha deciso, cioè la legge ovviamente, che va in automatico ripartito alle religioni? Allora, l'abate, l'ex abate di Monte Cassino e vescovo della diocesi, si chiama Pietro Vittorelli. A me dei gusti sessuali di Vittorelli non può fregare di meno, mi sembra anche molto pruderie e molta così, guardare al buco della serratura. Però, è sotto inchiesta perché si è appropriato di 500.000 euro depositati sui conti intestati all'abbazia e aperti presso lo IOR. Oh, sto IOR, ragazzi, no, ma mandateci Madoff a metterci le mani. Allora, con l'aiuto del fratello Massimo, ora indagato per riciclaggio, il prelato era riuscito ad occultare i soldi sui propri conti e negli ultimi anni li aveva utilizzati solo a fini personali. Questo anche dopo che l'avevano già scoperto e lui stesso si era esclaustrazionato, che vuol dire quando un religioso decide di vivere fuori dalla comunità religiosa per qualche tempo. Erano state le banche a segnalare le operazioni e il nucleo valutario della Guardia di Finanza. Vediamo come mai si è fatto beccare. In effetti ci ha messo anche del suo. Dopo aver trascorso nel 2013 l'estate in Sud America, Vittorelli rientra in Italia, ma continua a viaggiare. Il 14 ottobre è all'Hotel Principe di Savoia Milano e paga 2.100 euro di conto. A novembre va a Vicenza, si dedica allo shopping, spende 1.500 euro presso la pellicceria di Bottega Veneta. Ma che cavolo sei comprato nella pellicceria di Bottega Veneta, una abate? Poi, resort termale di San Casciano i Bagni in Toscana, 3.500 euro, 4 giorni al Corinzia di Londra pagando un conto da oltre 5.000 euro, un albergo. Il giorno dopo, cioè lui era a febbraio per 4 giorni al Corinzia di Londra, ma finiti i 4 giorni a Londra vola a St. Moritz, perché deve ripigliarsi anche un attimo dal Corinzia. Ama gli alberghi sfarzosi, ce ne siamo accorti, ma anche i capi costosi, anche di questo ce ne siamo accorti. Ad aprile 2012 viene a Milano, spende 500 euro del Ferragamo e dopo pochi minuti entra da Prada e compra altri 1500. Ma che faceva? Sfilava? 1400 euro da Prada. E poi uno chiama i grandi alberghi, gli alberghi costosi e i capi costosi. Qual è la terza cosa che ama di più? No, non è quella che voi pensate, ma oddio, c'è anche di quello, ma è il cibo. Oh, sui ristoranti è il numero uno, ma chiamatelo MasterChef. Il 3 aprile 2014 è al piccolo lago di Verbania, dove spende una cifra modesta per cenare, 615 euro. Il 25 aprile è al Sushi Samba di Londra, al Sushi Samba, ma voi immaginate questo, con la pelliccia di Bottega Veneta, le scarpe di Ferragamo, cos'è che è, le camicie di Prada, che arriva al Sushi Samba. E il cilicio, non oso pensare, di che mate, cos'è, in avorio, in platino il cilicio. Allora, arriva al Sushi Samba di Londra e spende una cifra modesta, una roba da neosobrietà, una roba appunto da abati, 1100 euro al Sushi Samba. E il 6 febbraio va in una salumeria della capitale, ma perché mi fate leggere queste cose? Va in una salumeria di Roma e spende cibo in una salumeria per 800 euro. Non so. Che infila, immagino, nella pelliccia di Bottega Veneta e nelle tasche dei pantaloni di Ferragamo, di Prada, e magari anche nelle scarpe di Ferragamo. Il 28 ottobre 2014 entra da Gucci e immagino la gioia, spende 1100 euro. Il 6 febbraio va appunto a spendere 800 euro di salumi. Poi c'è la cosa che più ha sorpreso, ma che secondo me è meno rilevante, ossia il fatto che abbia speso qualche centinaio di euro per collegarsi a siti internet specializzati in incontri. Beh, giustamente, ma quando investi così tanto sul tuo aspetto fisico, poi non è che puoi guardarti allo specchio e basta, vorrai incontrare qualcuno. Nel 2010 era stato segnalato al prefetto per uso di ecstasy, ma posso dire che è veramente questo, chi se ne frega, cioè con tutto, a meno che lui non utilizzasse l'ecstasy prima di recarsi a Bottega Veneta, da Prada al Corinzia, a St. Moritz, al Principe di Savoia, al ristorante Mirabelle di Roma dove ha lasciato 1300 euro, al ristorante Antico Arco di Roma dove ha lasciato 420 euro, al ristorante San Lorenzo di Roma dove ha lasciato 800 euro. Forse era sotto ecstasy ed è il motivo per cui utilizzava queste spese, comunque 500.000 euro. Ma l'abate è un dilettante, perché dopo il traffico andiamo al primo posto e lì, insomma, e lì abbiamo un vescovo di peso, di gran peso. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. And the winner is... il cardinale Bertone, ma anche la Fondazione dei Bambini Gesù. Guardate, qua c'è poco da ridere, perché quello che sto per leggere fa particolarmente girare, diciamo, alcune cose, perché non è solo la spesa ormai famosa della Fondazione dei Bambini Gesù per i 200.000 euro per l'attico di Bertone, di cui Bertone non li vuole neanche ritornare questi soldi, è che il fatto che nel frattempo il Bambino Gesù ha usato questi soldi in maniera folle. Adesso io la voglio raccontare con Massimo, anzi guarda, leviamo anche la base, perché quando si tratta di bambini, gli ospedali mi girano veramente. Allora, intanto possiamo far sentire che cosa ha detto il mitico Profiti, che è stato dal 2008 dal febbraio 2008 al 13 gennaio 2015 il numero uno della Fondazione Bambin Gesù. E Giuseppe Profiti è quello che ha anticipato i lavori per risistemare e tinteggiare i 300 metri quadri al terzo piano in via San Carlo di Bertone, il quale continua a dire che con tre suore ci sta stretto. E qui già sono le battute, perché ha tre suore pure per fargli da assistenti, ma non si è mai vista. Ma non solo, dice che lui non sapeva che gliel'avessero rifatto. O meglio, che il suo appartamento, che il suo attico fu stato rifatto con i soldi della Fondazione Bambin Gesù, non conoscevo gli investimenti sul mio attico, e comunque siccome adesso la nuova amministrazione della Fondazione del Bambino Gesù chiede a Bertone indietro i 200.000 euro, lui ha già fatto sapere che non li restituirà. Quindi non sapevi che c'erano stati mezzi. Hai immaginato che fosse la mano divina a ritinteggiare le tue pareti, a rimettere a posto l'attico. E va bene, uno chiede la mano divina, non è quel tipo di divina provvidenza che noi immaginiamo, ma non li vuole neanche ridare. Sentite cosa ha detto Profitti a Giovanni Minoli, a Radio 24, chiaramente, la mattina a Mix 24, in un'intervista in esclusiva che Minoli ha avuto in tema di sì, è vero, gli ho dato i soldi, però in realtà serviva per marketing, quello doveva diventare un elemento anche di promozione della fondazione. La ristrutturazione dell'appartamento del Cardinal Bertone l'ha pagata lei con i soldi della Fondazione del Bambin Gesù? Sì. Perché? Perché lì avremmo realizzato nel successivo triennio le maggiori iniziative della fondazione, quelle con il più elevato ritorno economico. Cioè? Lo rifarebbe, insomma, sì. Certo che lo rifarei, solo per darle un'indicazione, nel 2013 gli eventi per la fondazione che hanno visto la partecipazione del segretario di Stato hanno determinato nell'anno successivo un incremento della raccolta fondi di oltre il 70%. Siamo passati da una raccolta di poco più di 3 milioni ad oltre 5 milioni all'anno. Certo che lo rifarei. Quindi un appartamento di pubblica relazione in certo senso per fare marketing strategico. Assolutamente sì, proprio una delle azioni che erano previste nel piano strategico, ecco. proprio della fondazione. E bravo Profitti. Allora, siccome noi non siamo stupidi, e come ha capito benissimo anche Giovanni Minoli quando gli faceva la domanda sul marketing strategico, non ha nemmeno capito l'ironia forse Profitti, un conto è dire che quando c'era Bertone agli eventi dei Bambin Gesù raccoglievate più fondi, ci sta, lo fanno tutte le fondazioni che vogliono raccogliere soldi, invitano tra virgolette delle star, e Bertone sicuramente era una star nel mondo vaticano. Altra cosa è pagare 200.000 euro per un appartamento, e per ristrutturare un attico, scusatemi, altro che appartamento, e dire che quell'attico lì doveva servire come marketing strategico della... Mi date sta base per favore, cosa devo fare? Grazie. Grazie, quella del non tag Q, perché non tag Q vale anche per Bertone, grazie. Allora, mentre in regia si raccapezzano su questo, un conto è, dicevo, utilizzare Bertone come testimonial, un conto rifagli un attico dicendo che in un attico dove vive con tre suore puoi fare anche, diciamo, attività di marketing. Ragazzi, sono in 4 o 300 metri quadri, ma degli altri dove li metti? Ma quello che fa più arrabbiare è che nel frattempo la nuova gestione della Fondazione Gesù, sapete cosa è successo? Che ai tempi di Bertone, cioè la famosa intercettazione, erano stati dirottati non solo i medici ma anche i fondi dal Gaslini, ospedale pubblico di Genova. Grazie al governo Berlusconi di allora, 50 milioni dati dallo Stato italiano al Cardinal Bertone, per quello che riguarda, non ho più tempo, ho 1:30, no, non ce l'ho il tempo. Allora, 50 milioni dati come finanziamento di Stato al Bambin Gesù, mentre al Gaslini arrivavano le briciole, 5 milioni, e c'è un'intercettazione di Bertone che dice a Profitti, Profitti fa ridere Bertone dicendo abbiamo vinto, Roma batte Genova 85, 80 milioni contro 5 milioni, complimenti. Comunque nel frattempo il delirio di un'impotenza aveva fatto sì che Profitti ha fondato 3 ospedali Bambin Gesù, uno a Potenza, uno a Catanzaro e uno a Taormina. C'è anche un Bambin Gesù bis nella zona di San Paolo, un investimento enorme, pensate che solo i laboratori sono costati 26 milioni euro, e i parcheggi hanno sotterrato le catacombe paleocristiane di Santa Tecla, adesso li sta pure chiudendo perché non reggono più i conti. Questo è lo schifo della gestione di cui stiamo parlando. Ospedali aperti per altri motivi di potere, dei soldi a disposizione, uno Stato italiano che sbagliando dà i soldi al Bambin Gesù e non li dà al Gaslini, e allora ne parliamo noi e si becca il primo posto per quello che può contare della nostra classifica. Noi non andremo in paradiso, ma secondo me né Bertone sarà, diciamo, neanche Bertone lo vede molto vicino, forse arriverà prima la ripresa del PIL che il paradiso per Bertone. GR24 e poi il caso virtuoso. Il segnale orario vi è offerto da Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. 29% di abbandoni scolastici solo nel napoletano, in un'Italia maglia nera con il 15%. Nella lettera che aveva mandato a Renzi aveva parlato di un ragazzino che era difficile da tenere in classe perché si bisticciava continuamente con i ragazzi. Molte volte erano anche per mancanza di soldi. I genitori non avevano i soldi per comprare libri e tutto ciò che serviva per la scuola. Radio 24 Reportage. Napoli, alle radici dell'abbandono scolastico. Di Annarita D'Ambrosio. Questa domenica alle 8:15. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E questa base la dedichiamo chiaramente al mitico ex abate di Montecassino Pietro Vittorelli, visto che frequentava appunto locali così interessanti. Come cavolo si chiamava? Non riesco più a beccarlo, quello bellissimo, il Samba qualcosa, Sushi Samba di Londra, all'abate, che alcuni hanno definito, visto le spese, da Ferragamo, da Prada, da Bottega Veneta, prete a portè, non male, abate a portè a sto punto. Allora, prima di arrivare c'è anche la notizia di Standard & Poor's che dà il voto all'Italia, però come sempre per risollevarci invitiamo un imprenditore che in questi anni ha lanciato un'attività, ha accolto la sfida e il rischio. E allora, ingegner Livia Cevolini, amministratrice delegata di Energetica, buonasera. Sì, buonasera. Energica. Senta, cosa fa Energica? Energica produce e commercializza moto esclusive elettriche. Esclusive ed elettriche, cosa vuol dire? Nel senso... Esclusive significa prestazioni al top e made in Italy come design e configurazioni, ed elettriche significa 100% Vabbè. Elettrica. Cavolo, l'avessi saputo, la Batte di Montecassino si comprava pure questa. Senta, quando è che sviluppate il progetto? Voi nel 2014, ma da dove nasce questo progetto? No, in realtà il progetto è nato già nel 2009, dal 2009, perché è stato, diciamo, inglobato all'interno di una delle aziende di famiglia, e è nata la società che poi dopo ha, ha inglobato questo progetto, Energica Motor Company, nel 2014. Tra il 2009 al 2014 il progetto è stato sviluppato all'interno di CRP Group. Ecco, ora, visto che voi fate una moto, lo dico a chi non se ne intende, con prestazioni paragonabili a quelle normali, 240 km all'ora e accelerazione da 0 a 100 km in 2,4 secondi, si è occupato di voi anche il Financial Times, che vi ha definito la Tesla delle due ruote. Un bel complimento, visto che la Tesla spaventa molti grandi gruppi. Chi vi ha dato la mano a sviluppare come soldi il progetto e anche come ricerca? Fino ad oggi il progetto è stato finanziato al 100% dal gruppo CRP, e da oggi in avanti stiamo facendo quello che penso abbiate letto appunto sul Financial Times, quindi un IPO sull'AIM Italia. Quindi sbarcherete in borsa nel segmento AIM di Borsa Italiana, giusto? Esatto. Ma quando è che sbarcherete? È previsto all'inizio di dicembre. Da questo punto di vista, quante persone avete assunto per l'attività di Energica vera e propria? Oggi siamo all'attivo circa 35 persone, di cui una buona percentuale sono proprio dipendenti, e poi abbiamo qualcuno come consulente, diciamo, esterno. Ma voi le state già producendo a regime o avete fatto solo i primi prototipi? Abbiamo fatto la prima preserie, stiamo in questo momento allestendo la seconda preserie, sono le prime moto che vengono prodotte, vanno in mano ai primi dealer, ai primi importatori nei mercati principali, e poi da marzo invece parte la mass production. La mass production, la produzione di massa, il giro d'affari previsto per l'anno prossimo a questo punto, immagino? Sì, consideriamo che la rampa di crescita per la produzione è abbastanza graduale, perché vogliamo rimanere abbastanza cauti, vogliamo garantire quello che vogliamo essere sicuri di ottenere quello che diciamo, quindi la prossima annata sarà abbastanza tranquilla, sono 200-240 moto più o meno dichiarate. E quindi siamo ancora dentro a numeri abbastanza contenuti, insomma. In realtà non è una vera e propria mass production il prossimo anno, è più una produzione industrializzata che poi dopo è destinata a diventare più di massa, anche se non si può parlare di massa visto che stiamo sempre parlando di un prodotto esclusivo. E il giro d'affari che voi prevedete per arrivare a break even, cioè quindi per starci dentro, per usare un termine non così finanziario? Beh, il nostro break even è stato calcolato intorno alle 2000 veicoli venduti, quindi ottenibile tra qualche anno. Voi avete anche appunto beneficiate tra l'altro di alcune agevolazioni, no? La motorizzazione elettrica, se non ricordo male, in questo paese non paga la tassa di circolazione i primi 5 anni, poi ha uno sconto del 75%, sì? Sì, beh, no, in realtà consideriamo che i nostri mercati di riferimento sono altri, non è l'Italia, quindi in realtà... Quali sono? Beh, sicuramente il Nord Europa, la California, quindi stiamo parlando di Norvegia, Olanda, Germania, Svizzera e poi abbiamo altri mercati, è qualcosa di in Asia e poi California. Senta, quindi in realtà noi questi incentivi non li abbiamo sfruttati ovviamente. Ok. Senta, e quanto ci vuole a ricaricare, per curiosità mia, una moto elettrica? Beh, Energica è la prima moto al mondo a integrare il fast charge. E cioè? Quindi io riesco con una colonnina dedicata in corrente continua a ricaricare da 0 all'80% in circa 20 minuti, altrimenti dalla spina di casa che conosciamo tutti noi ci possiamo ricaricare in 3 ore e mezza, dallo 0 al 100%. In 3 ore e mezza. Mi diceva 35 persone, in bocca al lupo a tutti, prevedete, lo so che ha usato inglesismi, mi segnalano gli ascoltatori su WhatsApp che... Non l'ho corretta sugli inglesismi, sì, l'ho corretta su mass production, produzione di massa. Break even abbiamo detto come ci stai dentro, non è che posso fare il correttore automatico ogni volta, però dico... No, hanno ragione, mi spiace, purtroppo è una deformazione, ma hanno ragione, assolutamente. No, lo so che hanno ragione, è la linea di questo programma, si figuri se non sono... Se non sono davvero, adesso non c'è bisogno... Di troppa penitenza, non si preoccupi, la penitenza qua devono farla altri. Mi dica una cosa, prevedete di assumere nei prossimi anni oppure è ancora presto per dirlo? No, un pochino di crescita è prevista, ovviamente è sempre graduale, non vogliamo fare il passo più lungo della gamba, comunque stiamo crescendo, siamo in continuo ricerca di nuove persone, quindi abbiamo diversi CV sui tavoli da dover analizzare, anzi. Beh, vede che ci ricasca, diversi curricula, no? CV, diversi curricula sul tavolo. E ha ragione anche su questo, comunque sì, no, anzi, se qualcuno ha voglia di dare un'occhiata al nostro sito, stiamo cercando persone, quindi sarebbe molto, molto utile. In realtà sì, la crescita è prevista, non è esagerata, però sì, cresceremo ancora un po', dobbiamo arrivare a migliaia di moto in pochi anni, quindi ovviamente vogliamo crescere. Allora, mentre lei si flagella per gli inglesismi, ma ripeto, c'è qualcun altro che dovrebbe farlo per le cose che abbiamo raccontato prima e anche appunto il termine corretto, mi dica solo un'ultima cosa, la chiedo agli ascoltatori, ma quanta autonomia ha e quanto costa, così capiamo... Allora, autonomia sono 150 km a una media dei 70, il che significa che sul tipico giro in montagna che si fa con una superbike o tipico con giro in montagna con la superbike lo fa solo lei, io non ho mai fatto. Comunque, prego. Beh, no, in realtà questo è il nostro target, quindi per quello mi stavo riferendo a questo tipo di obiettivo di mercato. Brava. Allora, più o meno stiamo parlando di 120-130 km per una persona insomma che sa andare in moto, che va abbastanza forte. E, quanto costa? Stiamo parlando di una moto abbastanza esclusiva, quindi con un allestimento importante di alto livello, quindi siamo intorno ai 25.000 euro più IVA. Però, quindi andate sui mercati ricchi, Nord Europa, Stati Uniti? Beh, no, in realtà siamo allineati con i concorrenti top di gamma, quindi stiamo sempre parlando di moto con allestimenti, anche le altre importanti, quindi siamo allineati con i concorrenti. Senta, quanti anni ha lei? Io 37. Bocca al lupo, lei è 35 crepi. Dipendenti, crepi, me lo dice, se no dico good luck, ok? Grazie, buon fine settimana anche a lei, traffico. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presento Focus Economia. Minuti, allora andiamo sulla borsa. Oggi due notizie, una è nel Green Power e è nel più 1,30, nel Green Power più 2%, l'altra è anche A2A, mettiamoci più 2,30%, l'altra invece riguarda tutto il lusso, a partire da Ferragamo che ha preso una scoppola dell'8,12% di calo, Yoox Net-a-Porter meno 4,40, Moncler meno 2,5, Tod's meno 2,1. Citiamo anche Luxottica meno 1,20%. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Che è successo a Ferragamo, i conti e al resto del lusso? Tutto il lusso, non solo quello italiano ma anche quello europeo, paga i timori sulla Cina e sui mercati asiatici. In qualche modo questo si lega un po' ai dati che abbiamo visto anche oggi sul PIL dell'area euro, che sono stati dati ancora sì positivi ma che mostrano un rallentamento della crescita, mostrano un rallentamento proprio perché il livello di export è basso e soprattutto questi mercati sono particolarmente in crisi. Ieri Ferragamo ha dato i conti, ha segnalato proprio queste difficoltà sui mercati asiatici e ha anche affermato che sostanzialmente ritiene molto impegnativo raggiungere gli obiettivi che si è data per fine anno proprio alla luce delle difficoltà che sta incontrando in Cina sui mercati asiatici. E questo per quello che riguarda tutto il lusso. Ancora, il fronte opposto, dicevo, riguarda Enel ed Enel Green Power. Sì, nel Green Power oggi ci sono stati i conti diffusi da Enel, che sono conti molto buoni, ma il mercato guarda soprattutto la prospettiva di un'integrazione fra Enel e nel Green Power, un'operazione che è stata già annunciata nelle scorse settimane ma che potrebbe subire un'accelerazione, in particolare la prossima settimana il gruppo ha detto che potrebbe fornire qualche indicazione in più su come vorrà fare questa integrazione fra Enel e la società attiva nel energie rinnovabili, e questa è una notizia positiva per entrambi i titoli, in modo particolare per Enel Green Power che ha guadagnato il 2,04%. Per quello che riguarda invece A2A che ha guadagnato il 2,30%, la società beneficia delle attese di un possibile maggiore dividendo alla luce dei conti dei 9 mesi. Nella conference call con gli analisti ieri il management, quindi l'amministratore delegato e il presidente, hanno aperto a questa prospettiva e oggi il titolo si è rafforzato. Ultimo titolo, Anima ha ufficializzato l'offerta per Arche SGR, però il titolo perde il 2%. Sì, perché questa offerta potrebbe voler dire per Anima dover fare un aumento di capitale per finanziare l'operazione. Mm-hmm. Oggi sul mercato ci si interrogava un po' su quale poteva essere l'entità di questo aumento di capitale. Alcuni analisti ipotizzavano 200 milioni per finanziare un'operazione che vale fra i 700 e gli 800 milioni di euro. Migliori e peggiori, Gala meno 13%, Geox meno 10,80, IKF meno 9,17, poi Ferragamo di cui abbiamo detto. Migliori in assoluto, Fidia più 5,50, Blue Note più 3,70 e poi Panaria Group più 3%. Grazie Guido Maurino e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. Francamente io speravo in uno 0,3, se devo dirla tutta, dopodiché è comunque il terzo trimestre consecutivo positivo e francamente, se devo dirla tutta, non voglio essere troppo ottimista, però diciamo che negli ultimi due dati dall'Istat come previsioni, in entrambe le circostanze si è poi verificato a distanza di qualche giorno un miglioramento delle previsioni, probabilmente, come dire, porta bene, non c'è due senza tre. Detto questo, il dato di fatto è che nell'ultimo anno il PIL è cresciuto dello 0,9, viene ricordato dall'Istat stesso che si tratta di una striscia molto positiva. Detto questo, per me bisogna fare molto di più, quindi bene, fatto positivo, vediamo se ci sarà il passaggio a 0,3, ma insomma il clima è che l'Italia è ripartita, va bene. Poi 0,1 in più, 0,1 in meno, bisogna far sì che sia uno 0,1 in più. Però possiamo definirci contenti quando il PIL sarà vicino al 2%, ora è soltanto la ripartenza, quindi abbiamo rimesso in moto la macchina, bene così. Allora, questo è il commento del premier Matteo Renzi al dato di oggi sul PIL italiano, che come dicevamo in apertura un po' deluso, invece che fare 0,3 abbiamo fatto 0,2, che può sembrare un decimale ma è il 30% in meno delle attese. E soprattutto l'Istat fa sapere che per arrivare allo 0,9% atteso quest'anno, a questo punto, visto che il PIL acquisito è lo 0,6%, Occorre che il quarto trimestre, quindi quanto cresceremmo se il quarto trimestre facesse 0, sarebbe 0,6. Per, come media statistica, per fare 0,9 occorre che il quarto trimestre faccia più 0,8%. E non c'è neanche più l'abate di Montecassino a spendere, perché vedo che molti ex abate continuano a dire che il lusso è crollato oggi perché non c'è più l'abate di Montecassino. Basta, lo state scrivendo da ogni parte d'Italia, povero abate di Montecassino. Non è per quello, comunque. Allora, professor Piga, buonasera. Scusi. Guido Gentili. Professor Piga, l'avremo lunedì. Colpa mia, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore e chiaramente anche nostro ospite quando commentiamo la manovra. Buonasera, Guido. Buonasera. Allora, Guido, al di là della vicenda Campania, che comunque sta impelagando non poco anche il governo e la maggioranza, Renzi sappiamo che è un ottimista, fa parte della sua strategia, della sua narrazione, quella di ridare fiducia al paese, però nemmeno lui oggi riusciva a nascondere un po' di delusione. Poco fa è arrivata la valutazione di Standard & Poor's sull'Italia, ha confermato il voto BBB meno, le prospettive stabili, dice che c'è una modesta ripresa in corso in Italia e stima per l'anno prossimo una crescita dell'1,3%. Dicevo, nemmeno Renzi è riuscito a nascondere un po' di delusione. Sì, diciamo che se la vogliamo vedere, legge a quanto meno in un ottimismo meno di maniera e molto più realista. È che questa crescita, lui si aspettava, il governo si aspettava un più 0,3%, sappiamo che l'Istat ha comunicato un più 0,2%, forse quando sapremo i dati dei relativi ai servizi questo dato verrà rivisto al rialzo. Comunque lo stesso Renzi dice che bisogna fare molto di più e indica una cifra, anche una crescita intorno al 2% come sviluppo vero e stabile per questo paese. E quindi è evidente che c'è molto molto da fare e questi dati di oggi ci dicono che la strada è ancora molto lunga. In questo ritieni che ci possa essere qualche modifica anche, perché tutta la legge di stabilità si basa con questa prospettiva di un PIL più 0,9 quest'anno, più 1,4 l'anno prossimo, perché poi è il rapporto deficit-PIL, come spieghiamo sempre, che conta non quanto deficit ha in assoluto come numero, ma qual è il risultato del rapporto fra questo deficit e il tuo PIL, e non deve stare sopra il 3%, deve andare verso lo zero nell'intenzione dell'Europa. Dicevo, secondo te questo può modificare la finanziaria oppure no? Ma secondo me è difficile che possa modificare la finanziaria. Io aspetterei innanzitutto lunedì prossimo, quando a Bruxelles si dirà qualcosa di più sulla legge di stabilità che il governo ha presentato il 15 ottobre. Vediamo che tipo e che spessore di osservazioni saranno allegate a quella che sarà comunque una promozione, però è evidente che questo dato sulla crescita è un dato che ovviamente sarebbe stato molto meglio una crescita superiore, perché questa poi ha un'incidenza, come dicevamo prima, anche nella possibilità di far scendere il debito pubblico in rapporto al PIL. Perché se la crescita è bassa, questo si ripercuote negativamente sulle prospettive di riduzione del debito. Quindi siamo su un terreno, non dico minato, ma comunque un terreno scivoloso su cui bisognerà vedere quanto spazio si sarà dato sul terreno della flessibilità europea e diciamo quanta credibilità viene data a questa crescita italiana, che non a caso appunto le agenzie di rating, adesso l'ultima, quella Standard & Poor's, indica comunque per il 2016 all'1,3%, quindi inferiore all'1,6% previsto dal governo, e anche questo 0,3 ha una sua importanza. Sì, è certo che adesso io penso che non ce la faremo comunque a fare 0,9 quest'anno, spero di sbagliarmi, ma dovremmo fare un quarto trimestre, Guido, veramente a razzo. Io spero di sbagliarmi, perché spero veramente che faremo un quarto trimestre a razzo, però insomma lo 0,8 risulta un pochino ambizioso, possiamo dirlo questo. Sì, io ho visto che c'è una valutazione anche di Barbieri, economista del Ministero dell'Economia e Finanze, che dice, parla di uno sviluppo nel quarto trimestre dello 0,4-0,5%, però scontando che venga corretto dallo 0,2 allo 0,3, diciamo il dato che ha dato oggi l'Istat, il che è possibile ma non è comunque certo, e comunque siamo di fronte a una, diciamo, a una corsa così forte per il quarto trimestre che mi sembra difficile. Diciamo, magari faremo più 0,8, ecco, però non è questo, secondo me, no, poi, non è alla fine il punto. Oddio, poi sarebbe, ma ne parleremo un'altra volta quando avremo il dato. Al di là del fatto che sia ci permetterà di fare più 0,8 invece che 0,9, se tu comunque hai un quarto trimestre di ripresa più consistente e più forte, questo è molto importante per come entri, la velocità con cui entri nel 2016, non è solo il dato decimale in sé. Grazie intanto a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione al programma anche questa settimana. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.